la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori. Buon lunedì 15 maggio. Siamo in diretta alle 16:30, primi 25 secondi. Qui da una solata estivissima. Mio Dio, orrore, caldo. Milano. E dall'altra parte, ovviamente, la regista ride perché se non sono 70 gradi almeno non è contenta. Ma detto tutto questo, grazie per l'ascolto, come sempre, in diretta in podcast alla versione di Oscar. E di che cosa parliamo oggi? Della Lega e del centrodestra, perché ci sono questi due fatti nuovi. Uno rilevante perché ci sono state questo fine settimana, ieri, le primarie della Lega, e quindi alcune migliaia di militanti iscritti leghisti hanno espresso il loro voto per la leadership. C'erano due candidati: Matteo Salvini, il leader uscente, e l'assessore agricoltura della regione Lombardia Fava. Salvini si è affermato con l'82% del totale dei voti espressi. Parleremo, e vi chiedo la vostra opinione, di come interpretare questo voto rispetto alle due anime della Lega, perché il candidato perdente, con interviste rese da una parte da Berlusconi, che parlava alla Lega dall'esterno e con rispetto, ma anche poi con le prese di posizione di Bossi e sia pur più defilate, ma insomma significative, comunque anche di Maroni, era chiaro che questo voto degli militanti attivisti leghisti era un voto su una scelta netta, perché Fava, Bossi e anche Maroni, sia pur più prudentemente, hanno detto no alla linea Le Pen nazionalista e uscita dall'euro subito. Salvini è invece a loro definizione questa linea qui. Ha vinto Salvini. Cosa vuol dire questo per i rapporti futuri nel centrodestra? Vedremo. Nel frattempo, secondo evento, è uscita oggi sempre sul Foglio, che aveva fatto una mega intervista a Renzi, è uscita oggi quella in cui aveva risposto De Bortoli definendolo ossessionato sabato, eccetera. È uscita un'intervista altrettanto ampia a Silvio Berlusconi, sempre al Foglio, al direttore Claudio Cerasa, nella quale intervista Berlusconi ribadisce il suo viva la Merkel. Io faccio un modesto colpo di tosse rispetto a tutto quello che Forza Italia ci ha riservato dal 2011 in poi sul complotto ordito in Europa contro Berlusconi, ma Berlusconi è molto netto, dice che la Merkel è la più autorevole leader europea, e dice che torna sulla vicenda del 2011, ma io sorvolo a dire la verità. Berlusconi, oltre a dire che capisce benissimo gli elettori che non ne possono più in Italia delle vecchie facce dei politici, e qui mi viene da sorridere, ma per carità, però il punto che ci interessa oggi e sul quale vi chiedo la vostra opinione, se siete elettori del centrodestra ma anche se siete osservatori, chiamateci all'800 24 0024 per dirci. Ma insomma, Salvini, che esce vittorioso con la sua linea, è una linea netta, no all'euro, no all'Europa, sì al sovranismo, sì alla difesa della nazione compute di nazionalismo, se posso dire, quindi è un'altra cosa rispetto alla Lega federale non nazionalista, anti-italiana per così dire, regionalista e federalista dei tempi di Bossi, dei tempi di Miglio e così via. È proprio un'altra cosa, per così dire, ma deve andare insieme a Berlusconi merkeliano. Si troverà comunque la quadra, secondo voi, al di là delle differenze sull'euro, la Merkel, e sul fatto che appartengono a famiglie politiche europee non solo molto diverse, ma direttamente confliggenti, visto che la Merkel è in nettissima contrapposizione alle forze che erano i punti di riferimento della Lega in Europa. Ha senso immaginare che si sta insieme oppure no? Non ditemi dipenderà dalla legge elettorale, perché è ovvio che dipende anche dalla legge elettorale. Berlusconi continua a ribadire oggi che lui è per il proporzionale. La Lega con Salvini sta battendo un'altra strada, a dire la verità, e Renzi spera che la Lega e i 5 Stelle vadano sulla sua proposta 50-50, 50% proporzionale, 50 collegi nominali maggioritari. Berlusconi oggi ribadisce no, ci deve essere un proporzionale, primo. Secondo, dice Berlusconi, per individuare un rapporto tra elettori ed eletti vanno bene i listini ristretti o collegi uninominali anche ristretti, purché però non maggioritari, con un recupero proporzionale, per così dire, molto forte e prevalente, ma non va bene il voto di preferenza. E E poi in buona sostanza ribadisce che appunto la proporzionale serve, perché bisognerà vedere se la prossima legislatura può essere proporzionale, cioè se nessuno governerà davvero potrà essere, perdonatemi, costituente, ma insomma la cosa fondamentale è ristabilire una rappresentanza diretta e immediata tra voti espressi alle urne e rappresentanza parlamentare. Quindi sono molte i punti su cui interrogarsi. Salvini è tornato a ribadire oggi quello che aveva detto ieri. Lui ha un centrodestra che torni a essere in accordo, perché questa è l'implicita accusa verso Berlusconi. Berlusconi vuole un Parlamento proporzionale per rendersi indispensabile poi al PD contro i 5 Stelle. Lei e Salvini dice: radicalmente sono contrario e continuerò a perseguire la mia scelta, perché no alla Merkel, no all'euro sono elementi costitutivi della sua battaglia politica. Allora, per interrogarci, mentre aspettiamo che voi ci chiamiate e diciate: ma no, si possono comporre comunque, come fece nel 94 Berlusconi, sa comporre anche ciò che apparentemente è inconciliabile. Vi ricordate, nel 94 c'era l'alleanza con la Lega nel Nord, con quella che ancora non era alleanza nazionale al sud, e quindi riuscirà anche questa volta. Però è anche vero che col proporzionale, perché dovrebbe farlo se resta il proporzionale come vuole Berlusconi, si prendono più voti da separati che insieme. Ok, però c'è sullo sfondo un grande problema europeo. Oggi è stata la nomina da parte di Macron del nuovo premier, e ha scelto il sindaco di Le Havre, Edouard Philippe, che è un'altra figura un po' simile alla sua ma su un altro versante, cioè un giovane 46enne sindaco per la destra moderata, per il Républicain di Le Havre, ma che viene da una vita in cui ha alternato politica ed esperienza nel privato. Nasce come giovane socialista con Rocard, poi va a l'ENA, è un anarca anche lui, poi cambia simpatie politiche e si avvicina a Juppé, quindi la destra moderata dei Républicains, non Fillon per capirci, che è un'anima più integralista cattolica, ma contemporaneamente resta nel privato in uno studio di avvocati d'affari e come manager privato ad Areva, per poi nel 2010 farsi eleggere per l'UMP appunto in un consiglio regionale, e poi dal 2012 è sindaco di Le Havre. Quindi si equilibra a destra, facendo chiaramente intenderci Macron oggi che la sua scelta molto pro-europeista è una scelta che guarda agli eletti dell'UMP per fare la maggioranza presidenziale, oltre a quelli che riuscirà a eleggere con En Marche, che è alla prima prova di voto, ma nei sondaggi potrebbe eleggere addirittura più di 200. Io vi ricordo che sono 289 quelli che servono alla Camera dei Deputati francese, all'Assemblea Nazionale, per avere la maggioranza. E in ogni caso, aggiungo e termino per presentarvi poi gli ospiti, la Merkel nel frattempo continua a fare polpette dei suoi avversari, dove i suoi avversari non sono i populisti, visto che si è votato nel popolosissimo, oltre 18 milioni e mezzo di abitanti, land del Nord Reno-Westfalia, e i socialdemocratici è loro un tradizionale feudo, l'hanno perso per la sola seconda volta, pensate, in 50 anni, con un'umiliazione inflitta dal CDU-CSU al SPD, che ha perso quasi 9 punti percentuali, e quindi la stella di Schulz come candidato opposto al prossimo autunno alla Merkel decade, e la Merkel sembra imbattibile. Quindi tra Merkel e Macron sono coordinate europee molto diverse da una Merkel in grande difficoltà e dalla Le Pen vincitrice in Francia, che si poteva immaginare fino a 2 settimane fa. E questo lo scenario rispetto al quale la Lega centrodestra italiana deve riflettere. Allora, due ospiti: da una parte Carlo Lottieri, che insegna dottrina dello Stato all'Università di Siena ed è ricercatore dell'Istituto Bruno Leoni. Grazie di essere con noi, professor Lottieri. Buonasera. E Giovanni Orsina, che segna storia contemporanea alla LUISS, uno dei più attenti analisti con il suo libro, appunto, del centrodestra negli anni di Berlusconi. Grazie anche al professor Orsina. Grazie a voi, buonasera a tutti. Lottieri, io e lei siamo sostenitori d'antica data del modello svizzero, ma mi pare che in Italia non sia proprio aria. Lei interpreta il voto della Lega di ieri per Salvini come un comprensibile scenario, visto che gli avevano dato un morto al 2% e comunque nei sondaggi sta a 13-14, quindi perché cambiare rispetto a questa prospettiva? O è davvero la messa in soffitta della Lega come l'abbiamo conosciuta tra fine anni 80 e inizio anni 90, miglio, sussidiarietà, federalismo, no al dirigismo, al nazionalismo, e qui stiamo parlando invece di nostalgia della liretta. Lei che pensa? Ma diciamo così, la Lega transgenica di Salvini, che ha preso appunto un partito che era essenzialmente separatista e ne ha fatto uno nazionalista, secondo me si spiega a partire da Bossi. Cioè, Bossi ha costruito un partito totalmente verticista, in cui la leadership non è mai in discussione. In definitiva, il voto di ieri si spiega col fatto che c'è una parte della militanza, non insignificante, che vota sempre per il capo, che è sempre dalla parte del capo, perché il capo dispone delle poltrone. E un'altra parte, la maggiore, perché c'è appunto una visione molto da leadership, carismatica. Il declino del carisma di Bossi è stato sostituito dal carisma di Salvini. È però vera una cosa, che la scelta di ieri, diciamo, di questa Lega nazionale, nazionalista, lepenista, a mio parere crea uno spazio. Crea uno spazio perché la questione del nord, la questione del Veneto, della Lombardia, eccetera, è più viva oggi che non 20 anni fa. Per cui si tratterà di vedere quello che succede nei prossimi mesi. Però, singolarmente, i referendum che sono convocati per il prossimo autunno, consultivi, ma su siete favorevoli o meno a che la Regione Lombardia, il Veneto, perseguano la strada dell'articolo 116 della Costituzione per avere un'autonomia rafforzata, in passato provati da altre regioni ma senza successo, perché furono già provati dalla Lombardia, dalla Toscana, dal Piemonte negli anni tra 2004 e 2007. Però pare che di questi referendum oggi alla stessa Lega importi molto meno di un tempo, o no? È molto interessante questo. Allora, mettiamola così. Quei referendum non hanno alcun rilievo giuridico e politico soprattutto, nel senso che non porteranno nulla. Ci vorrebbe una maggioranza a livello parlamentare, come dire, è totalmente assurdo. E ciò nonostante possono avere un rilievo, diciamo, di propaganda, di cultura rilevantissimo, perché in fondo Zai e Maroni hanno allestito un po' qualche volta controvoglia, ma nei fatti si trovano, diciamo, a dover gestire due referendum che vanno in rotta di collisione con la strategia, diciamo, di Salvini, che vuole andare al sud. Per cui appunto in questa scelta radicale contro le proprie radici, fatta da parte di un partito che ancora nell'articolo 1 parla dell'indipendenza della Padania, quello che è interessante è che la Padania viene archiviata perché è un progetto fumoso con dentro l'Umbria, la Toscana, le Marche, eccetera, mentre la questione appunto delle regioni più produttive e più, diciamo, centrifughe del nostro paese diventa rilevante. È un problema grosso che Salvini deve gestire e che non so come gestirà, onestamente. Ma secondo lei si troverà l'accordo comunque tra Salvini e Berlusconi? Ma non credo, perché secondo me Salvini punta ad avere un numero di eletti da giocare a Roma, e probabilmente, nella mia così supposizione, lui pensa di giocare con i 5 Stelle. Non è un caso che in questi mesi non c'è mai stata una sola polemica tra Grillo e Salvini, e anzi, a certi punti di vista, c'è stata una sorta di coincidenze bizzarre su alcuni temi. Professor Rossina, io poi torniamo dopo la pausa col professor Lottieri per capire se nella parabola dal 900 in avanti di movimenti indipendentisti, che pure in Europa hanno fatto pezzi fondamentali di storia e sono la base di sviluppi ancora irrisolti, pensiamo a Catalogna, pensiamo all'Irlanda e così via, se si può trovare da qualche parte qualche analogia di correzione di rotta così radicale che magari può ulteriormente essere cambiata nella fase successiva, nella storia di quei movimenti, perché è comunque importante avere sullo sfondo queste cose che sono irrisolte, perché ripeto, se pensate alla posizione dell'Irlanda e della Scozia oggi rispetto al Brexit o al problema irrisolto della Catalogna, capite che sono questioni di lungo periodo, che sembrava fossero nati analogamente anche in Italia con un qualche fondamento storico, anche se molti dicevano di no, però la forza della Lega e la sua resistenza, il partito più vecchio che è rimasto nel Parlamento italiano, era questo. Professor Orsina, invece, dal suo punto di vista, chiedo, vista dal punto di vista di Berlusconi, però un accordo con Salvini non dovrebbe essere considerato comunque, malgrado le differenze molto nette, fondamentale per esercitare quel ruolo di interdizione condizionante che mi sembra essere quello a cui ambisce Berlusconi? Lei che pensa? No, io penso che Berlusconi abbia ancora in testa in realtà il modello del 94, cioè in questo Berlusconi è molto conservatore, appunto, diciamo nel senso più colloquiale della parola. Lui ha in testa lo schema del 94 e ha in testa il fatto lui stesso, diciamo, il fatto che lui stesso possa essere il grande federatore della destra italiana, e continua a inseguire quel tipo di modello lì, e lo insegue anche col proporzionale. E la verità è che la risposta, secondo me, per farci alla sua introduzione, non è dipende dal sistema elettorale, perché la verità è che il sistema elettorale lo sappiamo quale sarà. Io non vedo possibilità di andare su un modello neanche pallidamente maggioritario. Anche l'idea del 50-50, metà uninominale, metà collegio uninominale, metà proporzionale, è una cosa che il Movimento 5 Stelle non farà passare mai. Esatto, è un ballon d'essai di Renzi. Beh, insomma, è un per essere realisti, di Renzi serve a dimostrare a Mattarella che non c'è verso, che non si farà nulla e che quindi tanto vale sciogliere e andare al voto in autunno prima della legge di stabilità. Io la leggo così, perché sono cose che non reggono. Quindi noi sappiamo che andremo col proporzionale, ma Berlusconi comunque ha in testa il fatto che, ma lo diceva anche stamattina a Renews 24 Toti, anche in un sistema proporzionale, se la destra va divisa, poi finisce per fare da contorno a uno scontro sostanziale PD Movimento 5 Stelle. Quindi è un problema di visibilità, di peso politico, non è un problema immediatamente istituzionale, cioè insieme possiamo vincere. È il problema di dire noi esistiamo alla stessa stregua e con la stessa forza degli altri. Se non che fare questo ragionamento in assenza dell'incentivo istituzionale forte dato da un sistema maggioritario, ovviamente diventa un'operazione debole. E Salvini resiste, e secondo me anche resisterà fino in fondo, perché tutto sommato a Salvini questo meccanismo conviene fino a un certo punto. No, certo. Anche perché, se voglio dire, da questo punto di vista entrambi prendono più voti separati. Certo, a quel punto sono voti di Salvini quelli che prende la Lega, però il proporzionale è così. Ma no, entrambi probabilmente prenderebbero entrambi più voti separati, anzi quasi certamente, però insieme, anche se prendi 2 o 3 punti percentuali in meno, puoi far passare agli occhi degli italiani il modello un terzo e un terzo e un terzo. Sì, ho capito, sì, però significa dover accettare la leadership di Berlusconi, non so, Salvini che incentivo ha? Ma infatti, esattamente, il problema è il prezzo che poi paghi, è il prezzo che appunto poi dopo finiscono per allora, essere voti. Adesso ci fermiamo con un minuto di traffico, dopodiché torno chiedendo, allora tieni quello che ho già anticipato, ma c'è qualche analogia con gli altri movimenti indipendentisti europei a cui fare riferimento? E poi al professor Orsina chiedo, se è così, diamo per scontato che per realismo ragioniamo così tutti e tre, ma è una rottura che mi pare difficilmente sanabile, oppure si sana in qualche modo, in nome di che cosa? Dopo le elezioni, tra un minuto. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati a parlare della Lega e Berlusconi. Berlusconi che ribadisce, no? Merkel, io leader. E però Salvini che dice: intanto io ho vinto più dell'80% le primarie tra gli iscritti militanti della Lega con la mia linea, e niente in ciucci né in ginocchio. E ribadisco: niente Merkel, niente europeismo con l'Europa di attuale. E se possibile, via l'euro. Allora, sentiamo Simone, come la pensa? Ci chiama dalla provincia di Firenze. Buonasera, anzitutto complimenti per la trasmissione. E dunque, io posso dare il punto di vista di un elettore di centrodestra moderato. Sì. Essenzialmente io dico il centrodestra deve liberarsi appunto da questi atteggiamenti che non portano a niente e serve appunto un centrodestra che riscopra i valori liberali, popolari e anche cristiani, per cui sinceramente da elettore di centrodestra non me la sentirei di votare un Salvini, onestamente. Ok, ci ha dato un'opinione netta e chiara, diciamo così, che parla a quelli che fanno riferimento a Forza Italia di andare avanti con trasformazioni sui termini e i valori che ha detto lei. Isidoro da Brescia invece, tra l'altro oggi è anche Sant'Isidoro, quindi auguri. Grazie. Pronto? Eccoci qua, degli auguri, non volevo commuoverlo. Degli auguri non lo sapevo. Beh, ma è un grande santo, il santo degli agricoltori di tutta Europa, perché è dell'undicesimo secolo. Io voglio vedere che cosa succede, mi aspetto, anche se è una minoranza che è ancora per il nord indipendente, Salvini non li butti fuori. Però non me l'aspetto, perché mi sembra che l'intelligenza del personaggio lascia molto ma lui ha detto, lui non butta fuori nessuno, ha detto certo la linea è un'altra, però non butta fuori nessuno, stiamo a vedere. Però mi sembra che adesso sui sondaggi danno anche il 15% alla Lega, però sì, bisogna vedere quando andiamo a votare se ci sono questi voti o se invece sono, è un grande leader nei sondaggi. E quindi Isidoro ci fa capire, si vede dopo. C'è qualche ascoltatore, Carlo Lottieri, il professor Lottieri, che io per questo l'ho fatto la domanda, che dice: però se uno va a vedere la lunghissima storia dei catalani e degli irlandesi indipendentisti, anche lì ci sono state fasi in cui lo scontro duro indipendentista ha dovuto fare i conti con la realtà e andare su altri temi, quindi magari nel lungo periodo non è detto. Lei che dice, professor Lottieri? Ma certo, in parte è vero. Se noi guardiamo la Lega di Bossi, in fondo era certamente la Lega del Nord, ma era anche la Lega dei Rom, degli immigrati, dei pagani, del celtismo, oppure della riforma protestante, oppure del cattolicesimo tradizionalista, poi la Lega liberista, è stata tutto, per cui in qualche modo tutto questo ha favorito Salvini. Salvini ha preso un movimento che aveva sì questa ispirazione nordista, ma che Bossi sapeva piegare in questa e quella direzione secondo le esigenze opportunistiche del momento, e adesso ne fa appunto un movimento nazionale penista pronto domani a cambiare assolutamente idea. Il problema è che nel frattempo bisogna vedere cosa succede, perché in Veneto ad esempio molte cose stanno muovendo, c'è chi potrebbe portargli via certe posizioni, certe appunto difese del territorio potrebbero essere, come dire, assunte da altri soggetti a quel punto in maniera più seria e più determinata. Professor Orsina, lo stesso Berlusconi, anche se oggi ribadisce la sua lunga intervista, il leader sono io, insomma non lo dice così, però ne dà una descrizione che è se stesso, però a essere realista, e l'uomo è realista, in realtà potrebbe anche riservare sorprese, cioè di candidati leader sia pure falsi, perché poi col proporzionale non è che c'è una scelta maggioritaria, per cui sia pur con una forma di governo che non abbiamo cambiato, parlamentare, però insomma quello indicato dal partito col maggioritario che vince diventa premier. Detto questo, possono tornare a intendersi dopo le elezioni secondo lei? Dopo le elezioni Berlusconi e Salvini? Sì. Ma dipende da come sarà composto il prossimo Parlamento. Mm. Dopo le elezioni si intendono, cioè uno dei problemi secondo me è che poi il discorso che facevamo prima, cioè che fare massa critica comunque può convenire per dare all'elettore l'idea che ci sia un terzo polo alla pari del 5 Stelle e del PD, poi in realtà dopo le elezioni irrigidirebbe il sistema. Cioè lei dice alza il rischio di un'intesa tra Lega e 5 Stelle eventualmente, e che cosa che non può valere per Berlusconi e Forza Italia, capisco bene? Cioè il mio problema è che poi dopo il voto, allora, o noi immaginiamo che Forza Italia e Lega insieme abbiano la maggioranza, ma mi sembra francamente attualmente un'ipotesi improbabile, quantomeno improbabile. Se questo non è, le uniche maggioranze possibili all'interno di quel Parlamento, ammesso pure che ci siano maggioranze possibili, saranno prendendo i due pezzi separatamente, cioè esatto, Forza Italia col PD o la Lega col Movimento 5 Stelle. Io sono d'accordo con le conclusioni sia di Lottieri che di Orsina, quindi attenti cari elettori, perché proporzionale mani libere per i partiti significa poi, dopo tante critiche ai governi del presidente senza maggioranza, che deve essere un presidente della Repubblica che se ne crea uno, e a quel punto, magari sotto traduzione del governo di necessità, è più facile che i due pezzi del centrodestra attuale, sixtantibus, vadano da due parti diverse che nella stessa direzione. Quindi ha senso che restino separati, perché i leader dovranno essere coerenti. Vedremo, certo che a quel punto il terzo polo, con la stessa forza degli altri due, non c'è, e questo sarà il frutto degli anni che abbiamo alle spalle. E sarà un leader nuovo al centrodestra liberale? Bah, vedete voi, cari ascoltatori, io non dico nulla. Continuate su Radio 24, grazie a Lottieri, grazie Orsina. Appuntamento alle 8:20 domani mattina con me, Alessandro Milattenti, noi due.